sai, della prima volta sbagliata, colui che non capirà mai. Non è nel tempo che scivola e va, nell'ansia sottile che non svanirà, nemmeno a lei questa sera, felpa, cappuccio e bufera. In un passato che non passa mai, in un passato che non passa mai, non sono i cani di razza che urlano in piazza gridando che qui c'è un passato che non passa mai ed un futuro che non troverai. Non è quel pugno di sabbia pieno di rabbia, pieno di te, di libertà che non... passato che non passa mai. Yes people, questo è Jolly Roger. Yes people, questo è Jolly Roger, nuova puntata di un nuovo anno, benvenuti a tutti e tutte, salutiamo tutte le amiche e tutti gli amici che ci ascoltano, gli amici e gli amici del Brancaleone dal quale andiamo in diretta, salutiamo Gemini Network, Radio Sonar, Radio Grado che ci rimanda tutti i mercoledì, con grande piacere dalla settimana prossima saremo in contemporanea anche sui canali di Gemini per condivideremo la puntata di Jolly Roger. Quindi queste intanto sono è la prima news del 2024. Siamo la crew è quasi tutta al completo, manca la componente femminile, quindi noi salutiamo Alice che è ferma a casa. Un saluto nuovamente per questo nuovo anno. Poi piano piano spoileremo anche quelle che saranno le ospitate di questo 2024. Iniziamo con il primo pezzo di questa nostra prima puntata del 2024 e poi partiamo a bomba con quello che insomma è la puntata vera e propria. And right now Babylon dip on me case. Big city life, try forget by. Pressure now ease up no matter what me try. Big city life, my heart have no base. And right now Babylon dip on me case. People in a shower. wanna know me, be a friend of mine. Across the season, the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, now ease up no matter what me try. Big city life in my heart. And right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure now ease up no matter what me try. Big city life, my heart up no base. And right now Babylon upon me case. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter what me try. Big city life in my heart up no base. And right now Babylon upon me case. Big city life. Torniamo in diretta per questa nostra prima puntata del 2024. Parliamo un po', appunto, a breve passo il mic al nostro amico Matteo. E intanto parleremo di alcuni fatti di cronaca. Intanto questo è un fatto di cronaca a livello nazionale, più che di cronaca un po' anche di gossip vario, insomma. E, appunto, parliamo della Ferragni. Allora, passo intanto il microfono al nostro amico Matteo, che intanto parte con i saluti e poi iniziamo questo ambaradan con la nostra amica Ferragni. Ciao! Allora, buonasera Ciccio. Spiega un po' chi è ai nostri ascoltatori, chi è Chiara Ferragni e che lavoro fa. Buonasera, Chiara Ferragni lavoro fa una donna lavora in Jodal e con la purità. Allora, esatto, Chiara Ferragni è un, si chiamano influencer, questi che ormai sono diventati i nuovi lavori per i giovani, e ormai qui a Jolly Roger c'è anche la parte giovanile, ma c'è anche la parte senior, quindi diciamo che per me è un lavoro che non esiste, cioè sono braccia tolte all'agricoltura. Detto questo, la Ferragni quindi è un influencer, lavora sui social, si occupa di vendita di suoi prodotti e anche di altri prodotti, oltre a fare pubblicità appunto per i prodotti stessi. In questi giorni si è parlato molto di Chiara Ferragni, giusto Ciccio? Sì. E perché? Parliamo un po' di questa storia, soprattutto natalizia. Allora, perché pattone rosa del parrocco e... Allora, quindi diciamo sì, appunto, c'è stato questo scandalo sulla vendita dei panettoni griffati, usiamo anche termini tecnici, pandori griffati, appunto, che servivano per raccogliere fondi, ora non ricordo per cosa, mi sembra per bambini, per ospedali, per l'ospedale oncologico di Milano. Diciamo che la Ferragni è sposata anche con Fedez, che anche lui ogni tanto organizzano questi eventi, ma sembra che insomma questi fondi che si sono stati ricavati dalla vendita dei Pandoro dappertutto sono finiti, tranne che nelle casse dell'ospedale a cui erano stati promessi. Quindi hanno fatto pagare una multa alla signora Chiara Ferragni o no, Ciccio? Tu che sei informato? Sì, perché il fatto non ha dato i dati in ospedale, ma lei ha preso lei. Ah, Ciccio, giusto. Dice Matteo, ovviamente dice, non ha dato i soldi all'ospedale, ma li ha presi lei. A quanto pare la storia è questa, insomma, quindi diciamo che volevamo raccontare questo episodio soprattutto per far presente che, insomma, tante volte ci sono personaggi famosi che fanno anche beneficenza, magari non fanno pubblicità su quello che fanno, come ci stanno persone che campano di pubblicità promettendo di aiutare, ma a quanto pare le promesse restano tali. Quindi Ciccio, noi andiamo avanti. Tu che ne pensi di tutto ciò, di questa situazione di Chiara Ferragni e sti Pandoro? Mi brutta persona perché cara Ferragni, perché è brutta, brutta persona. Perfetto, ha detto è una brutta persona, Chiara Ferragni è una brutta persona in base alla situazione questa che ha creato, insomma. Va bene, allora noi intanto passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo con le altre due rubriche, ormai il meteo. Anche le partite. Perfetto, andiamo con un pezzo e ritorniamo qui. Vorrei cancellare ogni cosa stasera, non farmi sentire un'anima in pena, da sola. Oh. ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. Parlavamo, anche se appunto terminavamo il discorso sulla Ferragni, dicendo che appunto Ciccio ci diceva che sta vendendo l'amica Ferragni le sue borse, Griff e compagnia bella. Stavamo dicendo pure, fai tante cose, visto che appunto si parla della Ferragni. Qua a Roma ricordiamo che è stato vandalizzato il negozio della Ferragni in centro. Io non sapevo nemmeno l'esistenza del negozio della Ferragni, però ora abbiamo raccontato questo che è un fatto di cronaca abbastanza frivola. Torniamo a noi, Ciccio, torniamo a quello che sono le previsioni del tempo. Allora, dall'alto il nostro meteorologo Ciccio Masi ci farà le previsioni del tempo per il weekend, giusto? Sì. Vado? Sì. Vai. Allora, domani è tutta giornata c'è sole. Perfetto, quindi bel tempo. Fa freddo o fa caldo? Ma freddo. Poi? La domenica c'è il nuvolo, fai una passeggiatina e andiamo a mare. Ah, quindi Ciccio dice, visto che comunque quindi tu domenica stai dicendo che c'è il sole e fa caldo. Sì. E quindi lui dice, no, sabato c'è bel tempo, quindi si potrebbe fare una passeggiatina a mare, consiglia. Sì. E tu dove vai sabato? A Nettuno. Ah, ecco perché devo fare la passeggiatina al mare, pure una bella mangiata di fritto. Sì. Hai capito? Domenica invece? Nuvoloso. Nuvoloso, e quindi stiamo a casa a vedere le partite. Perché dormire? Tutto il giorno dormire, vero? Vabbè, senti, a parte dormire, poi domenica ci stanno anche le partite. Sì. E quindi che dobbiamo fare? Quante ore le partite? Vabbè, allora dai, diamo i pronostici su queste, sul weekend calcistico, o mandiamo una canzone e poi ritorniamo in diretta. Una canzone. Va bene, perfetto. Andiamo con un pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Tu la grande cerca mai più. Si guardo male come non ci stai tu, non è mai blu. Allora tu riesci a avere, ma non sei tu. Stivo con un'altra ma stivo con me. Quando stivo con me, pensavo a te. Tu mi sentivi parlava sulle pareci, buonero quando forneva. E ti stiva da tuo male, porta una scusa pronto quando forneva. E vado a dar cerca di suono, non so c'è lo sogno ma da curata. So contento che stai buona, perché a te fa sta buona non sono in grado. Scusa ma si parli, giù quando sto zitto. Rimasimo pensa, almeno quando t'è uscito. Cucchilla, e te insieme pareva in un film. M'è fornuto come in un film. Ma perché gagna quando sai che nessuno se ne morte non. Sono chi che sbaglio atterrà tutte cose me. E ora perché piangi, sai che non finirà così. Non è mai tardi, prima o poi tornerò da te. Aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino, ero l'ultimo della classe. Tu mi apprezzavi uguale a un amore di rose, pistola alla Axel. Può farci bene o male, ora mangio fatica sta cena di Justin. L'altro giorno ho rivisto tuo padre, ha detto che hai canto un fiume come Justin. Spero solo tu sappia nuotare. E scusa se non parlo più, ma sono in tilt. Penserai a noi svegliandoti a fianco a lui in quella suite. Io e te insieme ci sembrava un film, però è finita come in un film. Ma perché piangi? Tanto sai che a nessuno frega di noi. Sei tu che sbagli e dai tutta la colpa a me. E mo perché piangi? Tanto sai non è mai venuto. Ti ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Abbiamo parlato del tempo di questo weekend per tutti quelli che sono in giro. Si prospetta domani una bella giornata da passeggiatina al mare, come consiglia il nostro amico Matteo. E ora, oltre al meteo, parliamo anche dei famosi e amati pronostici del calcio del nostro amico Matteo. Ci siamo, Ciccio? Sì. Pronto per questa domenica, questo weekend di partite, anzi lungo weekend? Sì. Allora, Napoli-Salernitana, Vite-Napoli. Verona-Empoli, Vite-Verona. Torino, Icche 1, Piero. Quindi una vittoria del Genoa con un pareggio, poi altre due partite, vogliamo dire? Sì, Fiorentina, Udinese, Fiorentina, Frosinone, Fiorentina. Perfetto, allora noi invitiamo tutti quelli, gli amanti dei picchetti, a giocare i risultati del nostro amico Matteo. Vi aspettiamo come sempre, finora non si è presentato nessuno, Ciccio, diciamolo, però teoricamente noi siamo qui al Brancaleone tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.30. E Ciccio, allora, vogliamo, prima che passiamo il mic al nostro amico Luchino, volevi raccontare qualcosa? Così? Stefana. Ok, allora, tutte le feste la Befana se le porta via, quindi questa è stata una settimana di ritorno alla normalità, sono riprese le scuole, la gente ha ripreso a lavorare. E quindi, Ciccio, raccontaci, visto che è stato il tuo ultimo giorno di festa, mo se ne parla fino a marzo, la voglia a trottare, insomma. Stefana, allora io andrò a Portaioma con mamma, andrò a comprare la macchina rovata rosa a Maryland. È vero, giusto, Ciccio, noi ci siamo anche mezzi incrociati, giusto? Sì. E io voglio dire a tutti, io voglio dire, ho andato a Pattaioma, a Maryland, e ridotto. Fai tante cose, Ciccio, diciamolo, sono iniziati anche i saldi a Porta di Roma, quindi cioè, non penso che tu sei andato a fare uno shopping matto e compulsivo, però hai comprato appunto la macchietta fotografica. Sì. Io ho fatto una partigiana con mamma, ho fatto io ma con male. Allora, detto ciò, che sei stata a Porte di Roma, la calza te l'ha portata la Befana? No! Bene, bravo, vedi che Befana democratica che è stato, perché tu non te la meritavi. No, non mi piace, ma le vanno a non portare, ti ha portato i soldi? Ma no! Ma che soldi, proprio una Befana, ma è passata da casa tua? No! Niente, allora invitiamo la Befana a recuperare il viaggio che non c'è stato a casa di Ciccio, giusto? Sì. Che vuoi, la calza o i soldi? La calza. La calza, però col carbone, Sì. Va bene, allora noi mandiamo un pezzo e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Thank you. siamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Cambio al mic, c'è il nostro amico Luchino. Allora, io parto prima con una domanda che lo spiazzerà. È passata la Befana a casa tua? Mi spiace, Maurizio, né carbone né soldi, né soldi non dai, ma manco la casa, mi spiace. Vabbè, niente, quindi sta Befana la licenziamo, mi sa, quest'anno, perché né da Matteo né da Luca è passato. Ah, Luca, da casa tua è passata la Befana o no? Fa segno sì qua a testa, ma dici un po', è passata, sì? Sì, che t'ha portato? È passata la... Ha portato il cappello. Che bello il cappello. Diciamo. Ha portato un signor cappello, però visto che qui a Jolly Roger vige la regola della democrazia sportiva, la felpa e il cappello non possiamo, appunto, visto che siamo in democrazia calcistica, non possiamo dire di quale squadra è, però diciamo che della squadra più colorata della capitale. Detto questo, Luchi, torniamo a noi. Di che parliamo oggi? Allora, parlo di una... Allora, sono un po' timido perché a me certe ragazze... Allora, è partito con un argomento a gamba tesa. Io mi ero preparato, volevo partire prima dalle offerte. Partiamo in maniera soft, poi presentiamo l'argomento e poi lo raccontiamo lasciando anche qualche dubbio e qualche riflessione agli ascoltatori. Allora, partiamo con le offerte? Sì, offerte Conad. È Pippo a 2,50€, gusto nocciola o cacao. Coca-Cola da un litro a soli 3€. Canne Ginace a soli 99 centesimi. Conad, persone oltre le cose. Mazza che signore, io ribadisco anche in questo caso che noi dal Conad non cepiamo un centesimo, no, perché poi sembra, insomma, che facciamo pubblicità, noi facciamo, siamo appunto un programma democratico e siccome siamo tutti abbastanza morti di fame, dal senso che insomma non siamo di... non siamo ricchi, campiamo grazie alle offerte. Detto questo, mandiamo un pezzo musicale di Liberato che appunto parla dell'innamorarsi e di cosa vuol dire innamorarsi non avendo la persona al proprio fianco. E questo poi ne parliamo con Luchino. A dopo. Lata con je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom, je denkt het doodom, cause je denkt het doodom. Panettoni, cioè il partito pro panettone, che è praticamente pari a zero qui di Jolly Roger, il partito pro Pandoro che ha avuto tutti i consensi possibili e immaginabili. Allora, stavamo parlando con Luchino, appunto abbiamo fatto le sue offerte e si raccontava, si parlava insomma del discorso dell'innamoramento, dell'attrazione verso anche una ragazza, insomma, quindi sono cose. Ciccio, fra un mese si festeggia San Valentino, che è la festa per eccellenza degli innamorati. Prima c'è Sanremo e prima che c'è sta? Prima c'è lui. Il 22 gennaio faccio ben 17 anni. Ricordiamolo, quindi. Allora Ciccio, dici tu qualcosa su questo argomento che a te è a cuore, perché questo ultimo periodo, raccontaci. Allora, a me piacciono, insomma, delle ragazze, amichette, a cui voglio un sacco di bene, tipo, io un sacco di bene a delle mie amichette, anche quelle di scuola, voglio bene anche a due professoresse, anche alla tua Michele, che conosciamo tutti, mando un gran bacio. Sì, diciamo che Luca è un signore, cioè nel senso che comunque lui si comporta, cioè, veramente, anche, cioè, non perché sono qui presenti, ma insomma, l'amico Luca, l'amico Ciccio Matteo, Lucone, lo stesso qua, diciamo il termine giusto, hanno rispetto per la donna, che di sti tempi, insomma, mi sembra già un punto a loro favore, insomma. E quindi diciamo che Luca appunto vuole bene, porta rispetto a tante figure che gli girano, che è la mamma, la prima che si rispetta la mamma, giusto? Ne stavamo parlando, abbiamo sempre detto. Poi ci stanno tutte altre persone, tu c'è anche Chiara che ormai è diventata il bastone della tua vecchiaia, poi c'hai anche altre persone, appunto hai detto queste professoresse, hai Michela che salutiamo, cioè, diciamo che comunque sei circondato da un universo femminile e questo fa solo che piacere, insomma. E quindi diciamo che sei arrivata a una fase in cui ti stai innamorando. Sì. Perché quando io vedo certi ragazzi ogni tanto mi vengono i guanciotti rossi nel viso, e mi sento un po' timido, ecco. Io voglio bene un sacco di mie amiche, voglio bene anche alle ragazze dell'amico di mio fratello Matteo, che l'altro giorno, ecco, quando stavo con Damiano, gli ho dato un bacetto e i guanci mi sono diventati tutte rosse come un pomodoro già nato, ecco. E mi ho detto. Scioccato, simido. Rimane scioccato, si blocca, anzi, come gli dico io, si frizza perché si blocca proprio. Poi bisogna andarla a smuovere un attimino, ma si ricollega in un breve arco di spazio-tempo molto breve. Ogni tanto parlo, sì, tipo, voglio bene un sacco alla mia prof di ecologia, voglio bene alla mia prof di matematica, poi voglio bene a te, Chiare, a Elenuzza. Però alcune persone vado troppo matto e ci sta troppo in fissa, ecco. Vabbè, anche giusto, insomma, diciamo che la tua età è quella che, diciamo, insomma, si iniziano ad aprire tanti universi e mondi paralleli, tra cui anche quello delle donne. Poi ci sarà l'universo parallelo delle macchine, dei motori, l'universo parallelo del calcio. Quindi diciamo che anche questo, insomma, l'innamorarsi fa parte del mondo, dell'universo maschile, perché poi ovviamente stiamo parlando di Luchino. E questa, mo te faccio io una domanda proprio secca, di quelle proprio Vai. così. Questa è una sensazione che ti piace o una sensazione che ti fa star male? Mi va tanto impazzì, ecco, rimango proprio scioccato, felice, innamorato, perché certo rimango proprio imbambolato a guardarle per quanto so belle. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo che ha espresso, allora, quindi diciamo che i tuoi buoni propositi per il 2024 è di poterti innamorare, diciamo questo è quello che sta fra le righe. Ci stanno sempre buoni propositi, ne abbiamo parlato, io ancora non ho buoni propositi per il 2024, magari fra un paio di settimane ne riparliamo dei miei buoni propositi. Sei fidanzata? Ti posso dare un abbraccio? No, sei una cucciola, sei carina. Dovreste guardare i suoi occhi da cerbiatto. Detto questo, passiamo un pezzo e poi ritorniamo qui in diretta con Jolly Roger. O vuoi dirci, chiudiamo questo argomento? Dimmi tu. Intanto dico le battute e poi passo all'altro argomento. Sì. Quindi diciamo, chiudiamo questo argomento e andiamo con le battute? Sì. Vai, Ciccio. Momento delle battute. Come si gioca a poker? Colpo che. Cosa si mangia i parioli? I fagioli. Fermi, non si va in quattro sul motorino. In quattro. Porca troia, è caduto Ciro. Se fai l'amore con una stampante, fai una cosa a quattro. Costa il taxi? Beh, dipende dal tempo. Supponiamo che piova. Perfetto, andiamo con un pezzo musicale, questa ormai è un must, questa rubrica. Andiamo con un pezzo e poi ritorniamo in diretta sempre qui, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, questo è Jolly Roger. Thank you. tu. Stivo con un'altra ma stivo con me. Quando stivo con me, pensavo a me, pensavo a te. Tu mi sentivi parlare ma sulle pari spogliere quando forniva. E ti si vada tuo male per te ne scusa pronto quando forniva. E vado da cercare di suono, non so c'è lo sonno ma damo curata. So contento che stai buono perché te fa sta buono non sono in grado. Scusa ma si parli più quando sto zitto. Rimasi ma pensa almeno quando ti uscito. Cucchilla e te insieme pareva in un film, mi è fornuto come in un film. Ma perché gagno, quando sai che nessuno non morti nu. Sono chi che sbaglio, batterà tutte cose me. E ora perché piangi, sai che non finirà così. Non è mai tardi, prima o poi tornerò da te. Aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino, ero l'ultimo della classe. Tu mi apprezzavi uguale, un amore di rose, pistola alla Axel. Può farci bene o male, ora mangio a fatica sta cena di Justin. L'altro giorno ho rivisto tuo padre, ha detto che hai pianto un fiume come Justin. Spero solo tu sappia nuotare. E scusa se non parlo più, ma sono in tilt. Penserai a noi, svegliandoti a fianco a noi in quella suite. Io e te insieme ci sembrava un film, però è finita come in un film. Ma perché piangi? Tanto sai che a nessuno frega di noi. Sei tu che sbagli e dai tutta la colpa a me. E mo perché piangi? Tanto sai non è mai venuto. Sei tu che sbagli, accerà tutte cose di. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Interrompo il cazziatone che era fuori diretta, fuori onda. Non diciamo parolacce, per favore. Allora, stiamo parlando, abbiamo parlato con Luca dell'amour, del rispetto per il sesso femminile, sempre e comunque, anche se sono la parte più forte dell'universo, sono le donne. Allora, poi abbiamo raccontato un po' le battute, ora vai Ciccio, raccontaci un po' quello che si sta per avvicinare, è un lungo weekend. Allora, domani pomeriggio con mio padre andremo al centro commerciale Porta di Roma, che dovrà fare un po' di acquisti, allora... Ecco, vedi, prima si parlava appunto dei saldi, tu c'hai i soldi... Allora, come prima tappa andrò da H&M, dove lavoro, insomma, non dico chi, che ho già parlato, insomma... Mi prenderò i calzini della Lace, di Homer, forse di Homer Simpson, delle grande, grande, delle, genio. Forse una maglietta lunga di South Park. E... Vedi, vedi, l'influenza ogni tanto, qualche cosa riusciamo a dargliela. Cercherò anche qualcosa di paperino. E poi? Poi, seconda tappa, andrò da Decathlon. Perché c'è una mazza rotta, ovvero il pat, quella per il golf, che mi devo comprare anche un pallone della Nazionale Calcio degli Azzurri, che quest'anno, meno male, siamo qualificati. E poi, a riguardo, parleremo più avanti, magari, di quello che ci sono venute un po' di idee su questi europei 2024. Il pallone costa 19,50 ed ottimo, perfetto. Quindi consigliato. Poi, guarda, siccome mi piace andare in vacanza, io ho il biliardo a casa, certo quello non me lo porto perché è troppo gigante, provo a vedere quello è più conveniente, o BT50 o BT100, vedo quello è più conveniente, me lo porto e ci giochiamo in vacanza. Perfetto, ma già sa dove va in vacanza? Non lo so, io spero di andare con mio padre, spero di andare con i... Con... Speri, a biondo, l'anno scorso non ci siamo riusciti, ma sappi che quest'anno... Probabilmente ripartiamo tutti quanti insieme la cricca dei Jolly Roger quest'estate. Poi non diremo dove saremo, così in maniera tale che se volete ci potreste anche evitare sicuramente. una volta con mia madre, una volta con mio padre, decisero di andare al campeggio in cui sono stata, Residence Mare Pinete in Emilia Romagna, a Casal Pruzzetti, in provincia di Ravenna, che è 00172. E nulla, allora, per il guardaporta di Roma, io dovrò comprare anche dalle Romberland, siccome io ho un mega prato composto da tre colline, uno mega. Ma scusa un attimo, di che stiamo a parlare? Perché tu mi parli del prato di che? Di casa mia, insomma, di fronte, che dove prendo una cisoglia e qualcosa per tagliare l'erba, devo, insomma, era fino a tutto. Vedi, l'anima green dei ragazzi, quindi sì, si occupa della manutenzione del verde pubblico. Ma ragazzi, c'è collina, solo... Su quella collina gigante, c'è andato a giocare a nascondino, a golf, c'è un sacco di cose. Perciò devo dal massimo... E devi dare una riordinata, sennò altrimenti non c'è nessuno che se ne occupa. Ecco, diciamo che il trattorino mi dice no, perché costa tanto, 1200 euro se scordiamo proprio. Casomai una cesoia oppure una forbice leggera e il rastrello per togliere tutto, insomma. Quindi occhio che inizia la pulitura delle collinette da parte di Luca. Allora, poi dovrò fare anche merenda, dove vado sempre io, che ci ho portato Chiara. Si chiama Cioccola Italiani, che sta anche al Roma Est, che è un piccolo cubetto, e anche al Massimo, insomma, sta tutta Italia. Io mi sono preso un cappuccino, un waffle, che ho assaggiato anche pure il cioccolato bianco, ed è ottimo, cioccolato al latte, donut cioccolato al latte, raga, donut solo cioccolato al latte con crema di panna sopra, e cioccolato bianco donut. Comunque questo, a forza di tutte queste cose, mi sta a far venire fame. Non so voi, però, cioè, parla tutte le cose che io mi mangerei in quantità industriali. E io ve lo consiglio, quindi non so domani che mi prendo, se no mi prendo un totale, un waffle da 4 euro, un caffè da 1,20 euro, 5,20 euro. Ottimo, cioè, questo ha fatto i conti da serva, questo già domani sa quanto deve spendere, quindi lui esce in una maniera in cui può spendere solo ed esclusivamente questi soldi, cioè un'organizzazione familiare. Allora, ma donne, potreste prendere anche consigli dal nostro amico Luca. Allora, poi ci lavora, allora, Alessio è l'amico di mio fratello con la sua ragazza, Saretta l'amica di cui non ho parlato prima, e Emanuele è il fratello di To ed è l'amico di mio fratello, che è stato accettato, e sono orgoglioso che ha 18 anni andrò a lavorare là, non perché c'è Sara, vorrei far cassiere, però mia madre mi ha sgamato subito perché vorrei prendere i soldi e portarmeli a casa. Questo si chiama rapina, più che altro, non si chiama far cassiere. Comunque, insomma, domani giornata di shopping, poi anche la cena. Domani, quindi, tutta la giornata sta in quel di Porte di Roma. Andrò con mia cugina Rachele, la sorella di mio padre Franceschina, il cugino Gabri e la ragazza zia Fede, insomma. E andremo al ristorante American Graffiti, che sta uno sull'Appia e uno al Parco Leonardo. Andremo quello là. Al Parco Leonardo? Sì. E mi prendo davvero una Fanta Berry, ho già assaggiato per una Fanta Strawberry. Devo decidere, occhi a quello che prendo, perché mi piacciono un sacco quelle. E poi soprattutto perché poi, diciamo, bene non te fanno. E allora, questo non lo so, mi mangio i Crispy Nuggets, dai, diciamo che sono buoni. Ah, vi devo dire che sto andando in fissa col KFC l'altro giorno, aspettato, quando siamo andati a Porta di Roma prima, mi sono ordinato. Allora, una cosa, diciamo, la prima, respira un attimo, perché ti ho visto un attimino quasi bordone, preso dall'enfasi del discorso. A noi sta cosa piace molto, perché Luca, fino a qualche periodo fa, lui mangiava esclusivamente quelle 3-4 cose. Ma ogni tanto se ne esce con queste chicchette, lo sai, prima stava a parlare, ho mangiato questo, di qua, di là, i crispy, le cose, cioè, a noi fa piacere, insomma, quindi vuol dire che puoi veramente consigliare certe cose, quindi ora che ti ridò il microfono. E quindi sabato, giornata impegnata, domenica? E domenica sono nuvoloso, non so a che ora mi devo alzare per tagliare tutta quell'erbaccia, forse mi metto in mezzo alla giornata a fare qualcosa, ecco. Vabbè, quindi domenica, giustamente, sabato si riposa, domenica si lavora e lunedì si va a scuola. A quanto pare sì. Cioè, a quanto Però pare. oggi nulla. Faccio radio e me ne vado a casa. Perfetto, va bene. Senti, mandiamo un pezzo e poi ritorniamo in diretta con gli ultimi racconti e saluti. Che cosa stai pensando? O mi cade il mondo addosso, non saprei come rialzarlo, yeah. Gli sbirri mi fermano ancora in strada, mi trattano come un ladro, come se non fossi Zara, yeah. Come fosse vero, forse devo smettere di essere un po' severo. Tutto questo non lo possedevo, freddo con gli altri ma conta meno. Come sto monte negro, mezzo anacquato come il mio cervello, che a volte funziona e a volte è zero. Ti suono quei tasti, odio parlarci con dei falsi. Ti chiamo dopo sto nei cazzi, voglio un castello alla Jaycast. Sono un diamante che hai visto nel fan, proprio per questo mi fischio dell'altro. Io non capisco che parli, quando mi dicono il disco dell'anno, dico che è il disco degli anni. Cosa sai di me? Non me lo ricordo. Sto al sesto caffè, per questo non dormo. Amami come se non esiste, come se tra poco c'è il panico. Fino a finale triste come un mio senza dischi di platino. Sono ancora qui. Ritorniamo in diretta, ultimi minuti per noi, ultimi selfie, potete trovare tutte le foto riguardanti la puntata sui nostri canali social di Facebook e di Instagram, ora non li ricordo, però sicuramente basta che digitate su cerca Jolly Roger e vi porterà sicuramente alla pagina nostra. È stata una puntata piacevole, prima puntata abbiamo sforato anche quello che è il nostro consueto orario, ma sforiamo di pochi minuti e chi se ne frega, come direbbero i migliori. Passata a Befana, le feste si è portate via, c'è il mio amico Lucone che è qui a fianco, che gli passo il microfono e ci doveva appunto raccontare, anzi narrare quella che è la filastrocca sulla Befana. Vende notte. Tutte rotte. Si è la romana. Viva la Befana! Perfetto, via a Befana. Abbiamo detto che ormai, Luco, le feste sono finite, le scuole sono riprese. Tu ci stavi a dire una cosa ora che eravamo fuori onda. Ho detto, ah, questa tocca che bisogna informare i nostri ascoltatori. Tu hai iniziato ad andare ad una nuova scuola. Sì. Dove, come si chiama? Magliana. Alla Magliana. A Magliana. E che farai a questa scuola? In gita. Le gite? Ah, ok. E cosa ci sta a scuola? I cavalli. Ah, ok, quindi lui prenderà ad andare in questa... Che animali ci sono? Ah, ma quindi vai in una fattoria praticamente? Sì. Perfetto, ok. Allora, poi, visto che tu devi ancora iniziare, le prossime puntate ci racconti quello che fa, insomma, visto che comunque... È una cosa interessante, visto che appunto anche Matteo, Luca ci raccontano di scuola, anche tu Ciccio ti tocca raccontare di scuola. Salutiamo i nostri ascoltatori? Sì. Ciao. Ciao. Ciao da Lugone. Ciao a tutti, grazie per essere stati qui con noi e venerdì prossimo come sempre dalle 17 alle 18. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Allora, buon weekend a tutti e tutti, potete riascoltare tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 su Radio Grad. E è stato un piacere iniziare questo nuovo 2024 tutti quanti insieme, puntata piacevole e ancora buona serata e buon weekend a tutti e tutte.